Capitolo 29. Durante il mese che seguì, Anna visse in quello che per Avon Lee si potrebbe definire un turbine di eccitazione. La preparazione del suo modesto corredo per Redmond era diventata di secondaria importanza. La signorina Lavendar si preparava al matrimonio e la casa di pietra era teatro di innumerevoli consultazioni, progetti, discussioni con Carlotta IV, che gironzolava intorno, beandosi di quell'agitazione, in perpetuo stupore. Poi venne il sarto e il tormento e l'estasi dello scegliere i modelli e del misurarli. Anna e Diana passarono metà del loro tempo alla casa dell'eco e c'erano notti in cui Anna non riusciva a dormire, a furia di chiedersi se avesse fatto bene a consigliare alla signorina Lavendar il marrone piuttosto che il blu mare per l'abito da viaggio e la seta grigia per una principessa. Tutti coloro che erano coinvolti nella storia della signorina Lavendar vivevano in un'atmosfera di felicità. Paul Irving si era precipitato a Green Gables a parlare della faccenda con Anna non appena suo padre lo aveva informato. Lo sapevo che potevo fidarmi del babbo per la scelta di una seconda mammina, disse tutto fiero. È bello avere un padre su cui puoi contare, signorina maestra, e voglio proprio bene alla signorina Lavendar. Anche la nonna è soddisfatta e contenta che lui non abbia scelto un'americana come seconda moglie perché. Anche se è andata bene una volta, è improbabile che vada bene la seconda. La signora Linde dice che sono una bella coppia. Pensa che la signorina Lavendar la smetterà di essere così strana e che diventerà come tutti gli altri ora che sta per sposarsi. Ma io invece spero che non smetta, signorina maestra, perché mi piace così com'è e non voglio che diventi come gli altri. Ce n'è troppi di altri ora come ora. Lei lo sa bene, signorina maestra. Carlotta IV era anche lei raggiante. Oh, signorina Shirley, sa, tutto è riuscito così bene. Quando il signor Irving e la signorina Lavendar torneranno dal loro viaggio, andrò anch'io a Boston a vivere con loro. E pensare che ho solo 15 anni, mentre le altre ragazze non sono mai andate prima dei 16. Non è splendido il signor Irving? Bacerebbe la terra su cui ella cammina e io mi sento così strana a volte quando vedo la luce che ha negli occhi mentre la guarda. È indescrivibile, signorina Shirley, sa? Ringrazio Dio che si vogliano così bene. È la cosa più bella, anche se certuni riescono a farne senza. Ho una zia che si è sposata 3 volte. Dice che la prima volta si è sposata per amore, mentre le altre due si è sposata per interesse, ma che è stata sempre felice, eccetto che ai funerali. Però penso che di rischi ne abbia corsi parecchi, signorina Shirley, non crede? Oh, è tutto così romantico, bisbigliò Anna a Marilla quella sera. Se non avessi preso il sentiero sbagliato quel giorno che stavamo andando dai Kimball, non avrei mai conosciuto la signorina Lavendar. E se non l'avessi mai conosciuta, non avrei mai portato Paul a farle visita. E lui non l'avrebbe mai scritto a suo padre, esattamente il giorno in cui il signor Irving stava partendo per San Francisco. Oh, il signor Irving dice che appena ricevuta quella lettera decise di mandare il suo socio a San Francisco e di venire qui. Erano 15 anni che non aveva notizie della signorina Lavendar. Qualcuno gli aveva raccontato che stava per sposarsi e lui pensava che così avesse fatto e non chiese mai più nulla di lei. E ora invece tutto si è risolto e anch'io ho avuto la mia parte in questo. Forse. Come dice la signora Linde, tutto è predestinato e sarebbe successo in ogni modo. Ma anche in questo caso è bello pensare di essere stati lo strumento del destino. Sì, davvero è molto romantico. Non vedo proprio dove sia tutto questo romanticismo, ribatté Marilla piuttosto bruscamente. Marilla pensava che Anna fosse troppo eccitata per questa storia e avesse già abbastanza da fare a prepararsi per l'università senza girovagare fino alla casa dell'eco 2 giorni su 3 per aiutare la signorina Lavendar. In primo luogo, due giovani sciocchi litigano e si tengono il broncio. Poi Stephen Irving va negli Stati Uniti e dopo un certo tempo si sposa ed è perfettamente felice da ogni punto di vista. Quindi la moglie muore e dopo un congruo intervallo lui pensa di tornare a casa e chiedere al suo primo amore se lo vuole ancora. Nel frattempo lei non si è sposata, probabilmente perché non le è capitato nessuno che facesse al caso suo, e così si incontrano e dopo tutto decidono di sposarsi. Dimmi, su, che cosa c'è di romantico in tutto questo? Oh, se la metti in questo modo non c'è nulla, rispose Anna, come se qualcuno le avesse rovesciato addosso dell'acqua gelata. Immagino che, prosaicamente presa, la cosa appaia così, Ma è molto diversa se la guardi con gli occhi della poesia e... Anna si riprese, gli occhi le brillarono, le guance si arrossarono. Credo che sia più bello vederne il lato poetico. Marilla guardò quel giovane viso radioso e si astenne da ulteriori commenti. Forse capì, in qualche modo, che era meglio avere, come Anna, la visione e la facoltà divina, quel dono che il mondo non può concedere né togliere, di guardare alla vita con la capacità di trasfigurarla. Era forse una rivelazione, dove tutto pareva circonfuso di una luce celestiale e pervaso di una freschezza del tutto invisibili a coloro che, come lei o come Carlotta IV, guardavano solo al lato prosaico delle cose. Per quando è fissato il matrimonio? Chiese dopo una pausa. L'ultimo mercoledì di agosto. Si sposeranno nel giardino sotto il pergolato del caprifoglio, esattamente nel posto dove il signor Irving le fece la sua dichiarazione 25 anni fa. Marilla, questo sì che è romantico, anche per un individuo prosaico. Non vi saranno altri invitati se non la signora Irving, Paul, Gilbert, Diana ed io. E i cugini della signorina Lavender. Poi partiranno con il treno delle 6 per un viaggio sulla costa del Pacifico. Quando torneranno in autunno, Paul e Carlotta IV andranno a vivere con loro a Boston. Ma la casa dell'eco rimarrà com'è, naturalmente. Venderanno le galline e la mucca, sprangheranno le finestre e ogni estate verranno ad abitarvi. Sono così contenta. Mi sarebbe dispiaciuto terribilmente l'inverno prossimo a Redmond pensare alla vecchia casetta di pietra tutta spoglia e deserta con le stanze vuote, o peggio ancora con altri che vi abitassero. Ma ora posso pensare a essa come l'ho sempre vista, nell'attesa felice che l'estate le riporti vita e risate. Di amore romantico ce n'era al mondo molto più di quello toccato in sorte agli anziani innamorati della casa di pietra. Anna vi si imbatté una sera mentre stava andando a Orchard Slope, dalla scorciatoia per i boschi che sbucava nel giardino dei Barry. Diana Barry e Fred Wright stavano insieme sotto il grande salice. Diana era appoggiata al tronco grigio, le ciglia abbassate sulle guance color cremisi. Una delle sue mani era abbandonata tra quelle di Fred, che teneva il volto chino su di lei e mormorava qualcosa a voce bassa. Non esistevano altri al mondo che quei due in quel momento magico. Sicché nessuno dei due vide Anna che, abbracciata alla scena con uno sbalordito sguardo di compassione, si volse e fuggì senza far rumore attraverso il bosco di abeti, senza mai fermarsi, finché non fu nella sua stanzetta, dove sedette senza fiato accanto alla finestra e cercò di tornare in possesso delle proprie facoltà mentali seminate per via. Diana e Fred sono innamorati, disse fra sé e sé. Oh, è tutto così definitivamente adulto. Anna negli ultimi tempi non era stata aliena da sospettare che Diana stesse tradendo il malinconico eroe dei suoi sogni giovanili, ma dato che le cose viste sono più potenti delle cose udite o sospettate, l'accorgersi che era veramente così fu per lei un duro colpo, una vera e propria sorpresa. Ad essa seguì una strana sensazione di solitudine, come se in qualche modo Diana si fosse inoltrata in un mondo nuovo, chiudendosi alle spalle un cancello e lasciando fuori Anna. Le cose cambiano con una tale rapidità che quasi mi spaventa, pensò Anna con un po' di malinconia, e temo che questo implichi forzatamente una certa diversità tra Diana e me. Sono certa che non potrò più raccontarle i miei segreti ora, perché potrebbe raccontarli a Fred. E cosa mai può trovare in Fred? È molto simpatico e allegro, ma alla fine non è che Fred Wright. Domanda sempre difficile questa. Che cosa può trovarci uno in qualcun altro? Ma per fortuna è così. Altrimenti, se tutti amassero le stesse cose, beh, in un caso del genere, come disse il vecchio indiano, tutti vorrebbero la mia scopa. Era evidente che Diana trovava qualcosa in Fred Wright, qualunque fosse il parere di Anna. Diana, la sera dopo, andò a Green Gables e fu una giovanetta timida e pensierosa, quella che raccontò ad Anna tutta la sua storia nella solitudine ombrosa dell'abbaino. Le due ragazze parlarono, piansero e risero insieme. Sono così felice, disse Diana. Ma mi sembra ridicolo pensare che sono fidanzata. Cos'è realmente essere fidanzati? Chiese Anna incuriosita. Beh, dipende tutto dalla persona con cui sei fidanzata, rispose Diana con quella intollerabile aria di superiore saggezza che assumono sempre coloro che sono fidanzate nei confronti di coloro che non lo sono. Essere fidanzata con Fred è una cosa bellissima, ma penso che invece sarebbe una cosa orribile essere fidanzata con qualcun altro. Beh, la cosa non è molto confortante per noi, visto che esiste un solo Fred, rise Anna. Oh, Anna, tu non capisci, insistette Diana irritata. Non volevo dire questo. È così difficile da spiegare, ma non importa, capirai prima o poi quando toccherà a te. Oh, benedetta carissima tra le Diane. A che cosa credi che serva la fantasia se non a permetterti di dare un'occhiatina alla vita anche attraverso gli occhi degli altri? Anna, tu devi essere la mia damigella d'onore quando io mi sposerò. Promettilo ovunque tu sia. Verrò dai più remoti confini della terra se fosse necessario, promise Anna solennemente. Spero che non dovremo aspettare troppo a lungo, disse Diana arrossendo. Comunque, come minimo, ci vorranno 3 anni perché ho solo 16 anni e mia mamma dice che non mi lascerà sposare prima dei 21. Inoltre, il padre di Fred ha intenzione di acquistare per lui la fattoria di Abraham Fletcher e dice che vuole averla pagata almeno per 2/3 prima di intestarla a suo nome. Ma 3 anni non sono poi tanti per prepararsi ad essere una buona donna di casa e io non ho neanche uno straccio di biancheria. Bella, voglio dire. Ma domani comincerò a lavorare all'uncinetto alcune sottocoppe. Myra Gillis, quando si è sposata, ne aveva 37 e sono decisa ad averne almeno altrettante. Mi immagino che sia impossibile governare una casa con sole 36 sottocoppe, ammise Anna con aria solenne e occhi birichini. Diana parve offesa. Non avrei mai pensato che mi avresti presa in giro un giorno, disse in tono di rimprovero. Carissima, non ti prendevo in giro, gridò Anna. Stavo solo scherzando. Penso che tu sarai la più amabile donnina di casa del mondo. Anzi, sei già adorabile mentre fai i piani per la casa dei tuoi sogni. Anna aveva appena pronunciato la casa dei tuoi sogni che tali parole stimolarono la sua fantasia e cominciò subito a crearne una anche per sé. Era naturalmente una casa occupata da un padrone ideale, bruno, fiero e romantico, ma fatto strano, lei si ritrovava sempre tra i piedi Gilbert Blythe, che l'aiutava a disporre i quadri, a disegnare le aiuole del giardino e a sbrigare altre piccole faccende che l'eroe fiero e romantico evidentemente non considerava confacenti alla propria dignità. Anna tentò di allontanare l'immagine di Gilbert dal suo castello in aria, ma in qualche modo egli non se ne andò, sicché Anna, che aveva fretta, rinunciò al tentativo e continuò nella sua aerea architettura, con tale successo che la sua casa dei sogni era bella e ammobiliata prima che Diana parlasse di nuovo. Anna, immagino che tu riterrai buffo il fatto che mi piaccia tanto Fred, quando è così diverso dal tipo d'uomo che ho sempre detto che avrei sposato. Alto, slanciato, ma non so come mai. Non vorrei che Fred fosse alto e slanciato perché, capisci, allora non sarebbe più Fred. Certo, aggiunse Diana un po' perplessa, saremmo una coppia decisamente grassottella, ma dopo tutto è meglio che sia così, piuttosto che uno sia basso e grasso e l'altro alto e sottile, come Morgan Sloane e sua moglie. La signora Linde dice che non sa perché quando li vede insieme le fanno sempre venire in mente le frasi a farla breve e a tirarla in lungo. Beh, bisbigliò Anna fra sé e sé quella sera, mentre si spazzolava i capelli davanti allo specchio della cornice dorata. Sono contenta che Diana sia così felice, ma quando toccherà a me, se mai mi toccherà, spero di provare qualcosa di più. Anche Diana la pensava come me una volta. L'ho sentita ripetere continuamente che non si sarebbe mai fidanzata con un tipo qualunque, avrebbe dovuto compiere qualcosa di splendido per farsi amare da lei. Ora invece è cambiata. Chissà, forse cambierò anch'io. Ma non voglio, sono decisa a non volerlo. Oh, questi fidanzamenti sono davvero un fatto sconvolgente quando accadono ai vostri amici del cuore. Capitolo 30. Venne l'ultima settimana d'agosto. Il matrimonio della signorina Lavendar doveva avvenire in quella settimana. Una quindicina di giorni dopo, Anna e Gilbert sarebbero partiti per Redmond. Entro 8 giorni la signora Lind si sarebbe trasferita a Green Gables e avrebbe fissato Lari e Penati nella sua ex stanza degli ospiti, che era già pronta ad accoglierla. Aveva venduto all'asta mobili e suppellettili, superflue, e attualmente si dilettava nell'operazione a lei assai congeniale di aiutare gli Allan a fare i bagagli. Il signor Allan avrebbe pronunziato il sermone d'addio la domenica prossima. Il vecchio ordine stava rapidamente mutando per far posto al nuovo, come sentiva Anna, nella quale l'eccitazione e la felicità erano mescolate a una certa tristezza. «I cambiamenti non sono sempre piacevoli, ma è bene che vi siano», disse filosoficamente il signor Harrison. 2 anni sono un periodo di tempo sufficiente perché le cose restino esattamente come sono. Se lo restassero di più, rischierebbero di coprirsi di muschio». Il signor Harrison fumava sulla sua veranda. La moglie, in un momento di abnegazione, gli aveva detto che poteva fumare anche in casa, purché facesse attenzione a sedere accanto a una finestra aperta. Il signor Harrison aveva risposto a questa concessione andando a fumare addirittura all'aperto, quando era bel tempo, e così regnava la buona volontà da ambo le parti. Anna era andata a chiedere alla signora Harrison qualche dahlia gialla. Lei e Diana quella sera sarebbero andate alla casa dell'Eco ad aiutare la signorina Lavendar e Carlotta IV negli ultimi preparativi per la cerimonia dell'indomani. La signorina Lavendar non aveva mai avuto dahlie. Non le piacevano e non erano adatte al suo giardino d'altri tempi, ma ad Avonlea e nei distretti vicini quell'estate i fiori di qualunque specie scarseggiavano a causa del temporale di zio Abe, e Anna e Diana erano dell'opinione che una certa antica caraffa di pietra color crema, di solito consacrata alle frittelle dolci, se ravvivata dalle dahlie gialle sarebbe proprio stata l'ideale in un angolo buio delle scale della casa, sullo sfondo scuro della carta da parati rossa all'ingresso. «Mi sembra che lei parta per il college tra una quindicina di giorni, o sbaglio?» continuò il signor Harrison. «Beh, sentiremo terribilmente la sua mancanza, Emily ed io. A dir la verità, la signora Lind verrà qui a sostituirla, eh? Non esiste persona per la quale non possa trovarsi un sostituto». L'ironia del tono del signor Harrison non è riproducibile sulla carta. Nonostante l'intimità della moglie con la signora Lind, il meglio che si potesse dire della relazione tra lei e il signor Harrison, anche ora, era che mantenevano una neutralità armata. «Sì, parto», disse Anna. «Sono molto contenta quando ci penso, ma in cuor mio sono anche molto addolorata. Vedrà, farà man bassa di tutte le lodi e dei premi che ancora non sono stati assegnati a Redmond. Potrei concorrere a 1 o 2», confessò Anna. «Ma non me ne importa più di tanto di queste cose come me ne importava 2 anni fa. Quel che voglio ricavare dai miei studi universitari è riuscire a imparare il modo migliore di vivere la propria vita e come metterla a frutto e averne il meglio. Voglio imparare a capire e ad aiutare gli altri e me stessa». Il signor Harrison annuì. «È proprio questa l'idea, è proprio questo che dovrebbe insegnare l'università, invece di sfornare un mucchio di laureati in lettere così stipati di nozioni libresche e di vanità che non c'è più spazio per nient'altro. Ha proprio ragione, l'università non potrà farle del male, a parer mio».